È mercoledì 31 ottobre, magari siete pronti al ponte. Noi invece saremo qui a lavorare, ve lo dico, domani in diretta, venerdì in diretta, non cambia nulla. I titoli dei giornali, Il Sole 24 Ore, grandi opere, via alla riforma. Il governo approva un DDL delega per snellire l'iter e introdurre in Italia la consultazione pubblica. Questo è il titolo di prima pagina. Ci sono alcuni giornali che aprono sulla vicenda di New York, altri sull'appello di Napolitano, come il Corriere della Sera. Partiti, siate responsabili. Napolitano, nuove regole per il voto. Repubblica invece, il PDL scarica Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, arriva Grillo, panico nel palazzo. Per La Stampa, Napolitano blinda Monti, voto ad aprile. Il Messaggero, il richiamo di Napolitano. Chi apre su New York è il Secolo XIX, Sandy spegne New York, 40 morti. Per Il Giornale invece Rivoluzione 5 Stelle, dunque Beppe Grillo, i primi ghigliottinati, Fini, Di Pietro e Vendola. Libero, la verità sulle pensioni, con la riforma Fornero non solo si lascerà il lavoro più tardi ma si prenderanno meno soldi. L'Unità invece, l'alternativa dal centro a Sel, l'effetto Sicilia. Avvenire, povera famiglia, i voti del forum, 7 regioni l'aiutano, le altre poco o nulla. Cosa fanno le regioni per le politiche familiari? Pubblico invece di politica, il vecchio che avanza, e per Pubblico sono Bersani e Casini. Mentre Il Manifesto apre su New York e Sandy, la piccola mela. Questo è il titolo del Manifesto. Come vedete, ogni giornale fa una scelta diversa, non c'è un'apertura che accomuna tutti, ma tra politica, New York, l'appello di Napolitano, questi i maggiori titoli dei giornali. Io voglio partire da una vicenda che però è raccontata su alcuni quotidiani, per la verità è raccontata prima dal settimanale Chi, ma oggi è ripresa dal Fatto Quotidiano, dal Giornale, dalla Stampa. È una presunta frase smentita dalla diretta interessata del più classico «Lei non sa chi sono io» per una multa per divieto di sosta. Protagonista è la moglie del segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Il Fatto Quotidiano a pagina 6, una vigilessa multa la moglie di Bersani, lei non sa chi sono io. Questa sarebbe, ripeto, bisogna usare il condizionale perché il Partito Democratico ha smentito e presenterà querela per il settimanale Chi. Avrebbe detto la moglie di Bersani, racconta Gianmarco Aimi al Fatto Quotidiano a pagina 6, cosa sarebbe successo? Beh, il fatto c'è, nel senso una multa. Un piccolo putiferio per una contravvenzione al codice della strada, 36 euro e spiccioli, avviene a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza, dove alle 11.30 del mattino di una mattinata la signora Bersani si ferma alla profumeria nella centralissima via Veneto di Ponte, e una tappa che fa spesso. Entra, fa acquisti, pochi minuti, la macchina messa un po' così, come capita, e quando esce c'è una vigilessa che sta annotando il numero di targa, al che ci sono i testimoni. C'è chi dice che la signora abbia chiesto di chiudere un occhio, d'altronde sono pochi minuti che sono qui. La vigilessa scuote il capo, e al che questa frase, che qualcuno dice di aver sentito, altri testimoni dicono non l'ha mai pronunciata. Scusi, ma lei lo sa chi sono io? Perché tanto accanimento? Niente da fare, il verbale è pronto. Secondo alcuni testimoni è sembrata molto infastidita, non ha neppure seguito le istruzioni della vigilessa che faceva notare l'ingorgo che aveva creato, ha spiegato una negoziante. Pare che ci sia stato anche degli applausi nei confronti della vigilessa, al che la moglie di Bersani avrebbe minacciato chiamo i carabinieri. Insomma, una vicenda tutta un po' da chiarire, smentita dal portavoce di Bersani Stefano Di Traglia, che dice è totalmente falsa la notizia, scrive su Twitter, è accanimento preelettorale. Il sindaco del paese Roberto Spinola conferma solo la multa. Sul verbale non c'è scritto nient'altro che contravvenzione per divieto di sosta. Sta di fatto che insomma c'è questo giallo della multa alla moglie di Bersani, scontro sulla multa alla moglie di Pierluigi. Lei non sa chi sono io, non l'ho mai detto. Così sul Giornale Gabriele Villa racconta che Daniela Ferrari, la moglie di Bersani, sanzionata per divieto di sosta, dice c'era anche una clac, ma ho pagato senza contestare nulla. È tutta colpa di questi 36 euro. È colpa anche, dice la, adesso quella titolare della profumeria dice, è colpa anche del mio POS, del bancomat, che le ha fatto perdere tempo e quindi non si collegava la linea e quindi è dovuta stare un po' più di tempo. Insomma, sta di fatto che anche Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, certifica il tutto nel suo graffio a pagina 3 dal titolo Mogli. Per evitare una multa, la moglie di Bersani avrebbe detto alla vigilessa: lei non sa chi sono io, manco fosse la moglie di Renzi. Questo scrive Iena. Vabbè, vogliamo, prima della pubblicità, vi voglio lasciare con un sorriso. Sapete che è tempo di primarie, primarie del Partito Democratico, del centro-sinistra, diciamo, di coalizione, primarie del Popolo della Libertà. Ieri il Popolo della Libertà ha annunciato faremo le primarie. C'è un altro che ha annunciato farò le primarie. www.levereprimarie.it. Dal 3 novembre, quindi se andate lì, io l'ho già fatto questa mattina, cioè dal 3 novembre, Antonio Albanese, alias Cettola Qualunque, ma anche Frengo, di Frengo e Stop, oppure Rodolfo Favaretto, cioè tre dei suoi personaggi, eccole qui, secondo Antonio Albanese, le vere primarie. Potete scegliere dal 3 novembre tra Frengo e Stop, Cettola Qualunque e Rodolfo Favaretto. Chiaro, lo fa per il lancio del nuovo film il 13 dicembre, che si intitola Tutto Tutto Niente Niente, punta sulla competizione, contrariamente a banali imitazioni messe in piedi da altre forze politiche, dice Antonio Albanese, basterà un semplice click, potranno votare tutti, italiani, residenti, italiani non residenti, stranieri regolari e irregolari. www.levereprimarie.it, la nuova iniziativa di Antonio Albanese, un po' per scimmiottare la classe politica. Al di là dei sorrisi, il vero monito anche di Napolitano alla classe politica e di Monti, che dice siamo, va bene, saremo un governo maledetto, ma abbiamo pur sempre un gradimento più alto degli attuali partiti. Allora, l'indomani del voto in Sicilia, che ha certificato il fatto che intanto 52% degli elettori non sono andati a lavorare. C'ho in mente la mancanza del ponte, a votare. E poi che molti hanno votato, i tradizionali partiti hanno perso consensi. Ebbene, Monti parlava all'indomani di tutto questo, e non è una coincidenza quello che ha detto ieri. Titolo di pagina 7 del Sole 24 Ore, maledetto ma più gradito dei partiti. E racconta Lina Palmerini, resta pieno di turbolenze il clima tra Mario Monti e i partiti. Il premier non ne fa mistero, il governo, ha detto, ha dovuto fare cose molto sgradevoli, ma la percezione di quel che fa questo maledetto governo, anche se non è rosea, ha un livello di gradimento molto più elevato rispetto a quello dei vari partiti. E beh, insomma, che dite, cari ascoltatori, si è tolto qualche sassolino, come dire, noi saremo anche i maledetti che fanno le cose scomode, ma guardate come sono messi gli altri. Ecco, tradotto dal montese vuol dire così, brutale. Il premier parla, scrive Lina Palmerini, all'indomani del voto in Sicilia, che ha fotografato partiti in calo di consensi, l'avanzata di Grillo, l'avanzata dell'astensione. Dunque, se maledetto è il governo, non sono benedetti i partiti, dice Monti. E parlava al convegno del World Economic Forum a Roma. Gli ha risposto in qualche modo Pierluigi Bersani dopo un po' di ore, perché parla di partiti al plurale? Il PD in questo momento ha una crescita di consensi. Ma certo, non è la prima volta, tra l'altro, di un Monti che parla di partiti con poco appeal, aveva parlato in passato, di consensi rivendicati anche quando era a Tokyo, forse ve lo ricordate, parlò di nonostante alcuni giorni di declino a causa delle nostre misure il governo gode di alto consenso mentre i partiti no. Insomma, un Monti che ogni tanto qualche stoccata alla politica la dà, sempre a suo modo, sempre con l'aplomb, sempre con la sobrietà, ma come dire, molto molto dura, tanto che ora si gioca molto su questo termine maledetto, bloody government, ha detto in realtà Monti come James Dean, titola Libero, io maledetto. E sul Corriere della Sera, pagina 6, Monti sferza i partiti, il governo maledetto ma più gradito di loro. Insomma, questo è un tema del monito di Mario Monti ai partiti. Un altro monito importante è stato quello del Presidente della Repubblica Napolitano, che ancora ha ribadito alla classe politica, al Parlamento: bisogna andare al voto con nuove regole. Man mano che passano i giorni, io ironizzo anche un po' su Twitter, ormai siamo arrivati alla, credo, 89esima settimana decisiva per la riforma elettorale, quando ormai sembra invece chiaro che è sempre più probabile che si potrà andare a votare anche con l'attuale riforma, cioè l'attuale legge, il Porcellum. Ebbene, ieri Napolitano, ancora il capo dello Stato, ha detto: al voto con nuove regole. Il capo dello Stato blinda Monti, scrive il Corriere della Sera con Marzio Breda, che è il quirinalista che segue sempre le vicende del Quirinale. Legislatura a scadenza naturale, ridefinisce per l'ennesima volta l'orizzonte temporale che la politica ha davanti. È un avvertimento a doppio significato, scrive Breda, quello che lancia Napolitano. Da un lato gli serve per blindare Monti a Palazzo Chigi, bagnare le polveri disseminate da qualche aspirante incendiario come Berlusconi, che minaccia di sfiduciare l'esecutivo. Dall'altro lato la roadmap cronologica gli serve per lanciare l'estremo memorandum ai partiti sulle cose da fare, molte, e fino all'ultimo, il 7 aprile, evitando di disperdere le energie e paralizzarsi già ora sulla campagna per il voto. Soprattutto, dunque, un invito alla legge elettorale. Qualcosa ieri però si è mosso. Allora, si è mosso per quel che riguarda i costi della politica. Noi ne parleremo alle 8.30. Allora, ieri il governo, le regioni si sono ritrovate tutte e hanno stabilito dei parametri. Tenetevi forte, cari ascoltatori, perché arrivano i sacrifici. Grandi sacrifici per i politici delle regioni. Sono stati stabiliti dei costi standard, analizzando le regioni più virtuose, poi ecco appunto, ognuno potrà stabilire se si possa utilizzare questo aggettivo oppure no, e in base a quello si sono stabiliti i parametri di quanto dovranno guadagnare i presidenti di regione, i consiglieri regionali. Allora, leggo dall'articolo di Lorenzo Salvia sul Corriere a pagina 8. Regioni, slitta la riforma ma tetto agli stipendi. La discussione è stata lunga, alla fine le regioni hanno raggiunto però l'accordo sulla riduzione degli stipendi. Ecco la lista che le regioni hanno presentato al governo. Il presidente di regione guadagnerà 7.400 euro netti al mese, comprensivi di tutto. In alcuni casi oggi può arrivare fino a 14.000. Invece 7.400, come in Umbria, che è la regione dove il presidente guadagna di meno, e quindi si è stabilito che quello è il massimo a cui fa riferimento. I consiglieri regionali invece guadagneranno al massimo 6.000 euro netti al mese, massimo, mentre oggi arrivano fino a 12.000. Su questa voce il riferimento è l'Emilia-Romagna, dove i consiglieri guadagnano questo. Infine, per i contributi ai gruppi consigliari, la voce che aveva fatto scatenare tutta la vicenda Fiorito in Lazio, si scenderà a 5.000 euro l'anno per ogni consigliere, con un risparmio che le stesse regioni calcolano in 40 milioni l'anno. In questo caso il modello preso è l'Abruzzo. Non tutti sono d'accordo, ovviamente c'è sempre qualcuno che storce il naso. In questo caso le regioni statuto speciale hanno criticato il decreto e la Valle d'Aosta ha già annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale contro questo decreto. Noi vogliamo bene ai responsabili politici della Valle d'Aosta, a questo punto forse li chiameremo nei prossimi giorni, ci spiegheranno il perché, visto che, come scrive il Secolo XIX, nel titolo la parola sacrifici è messo tra virgolette. Non è un sacrificio enorme per un consigliere regionale guadagnare 6.000 euro al mese. Che dite, cari italiani? È un tirare la cinghia? Regioni più sacrifici, tra virgolette, con 6.000 euro al mese, titolo al Secolo, a pagina 4, sarà la paga standard dei consiglieri, mentre i governatori appunto guadagneranno 7.400 euro al mese. Anche il Messaggero, con Diodato Pirone, racconta: regioni, stipendi dimezzati a governatori e consiglieri. Certo, pur sempre è qualcosa, è pur sempre in alcuni casi un dimezzamento dei costi della politica, ma rimangono dei bei stipendi corposi. E tra l'altro sul Messaggero c'è tutto lo schema di quanto guadagnano ora regione per regione i governatori e i consiglieri regionali, e quindi uno può verificare quanto, a quanto ammonta il calo regione per regione, adeguandosi ai nuovi parametri, sempre che non ci siano ricorsi alla Corte Costituzionale. La Val d'Aosta ha già detto lo faremo. Le regioni a statuto speciale dicono hanno storto un po' il naso, vedremo se faranno ricorso alla Corte Costituzionale, perché in Italia è sempre così quando si tratta di questi temi. Ovviamente la politica si interroga anche sul dopo voto in Sicilia. Oggi Rosario Crocetta, il governatore designato che ha vinto le elezioni in Sicilia, fa due interviste all'Unità e a Pubblico. Sull'Unità, Yolanda Bufalini, ovviamente il tema è sempre quello della governabilità, cioè come fa, non essendoci il premio di maggioranza, a governare, visto che non ha la maggioranza con i suoi uomini, il suo asse politico PD-UDC, deve allearsi con qualcuno. Ma Crocetta ha già detto e ribadisce in questa intervista: nessun inciuccio, non facciamo accordi per posti di sottogoverno, per incarichi. Teorizza questa idea che già ieri il senatore Lumia ci spiegava qui ai microfoni di Radio 24, di voler fare delle sorte di maggioranze variabili, cioè sfidare l'aula su ogni singolo provvedimento e cercare la maggioranza su ogni singolo provvedimento della giunta della regione. Rosario Crocetta parla anche della mafia, l'Unità, la mafia ha votato, niente affatto, la mafia ha votato per impedire con tutte le sue forze la mia elezione, soprattutto per impedire questo accordo nuovo tra le forze progressiste e moderate che avrà i suoi effetti. Se la prende anche col sindaco di Palermo Orlando, che ha parlato di rivotare per questa astensione. La campagna elettorale è finita, dice Crocetta, anzi, perché non si dimette lui che la città ringrazierebbe? E poi parla agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Ora loro sono deputati come gli altri. Dovranno decidere cosa fare su una norma come quella che ha proposto Lillo Speziale, che vieta le nomine per gli inquisiti, oppure sul doppio voto di genere, o ancora su una lista privilegiata per gli imprenditori e le imprenditrici che denunciano il pizzo, in modo che possano continuare a lavorare. Insomma, un Crocetta che... dice riguardo alla maggioranza: non, la mia non è una maggioranza bulgara, ma non farò accordi né di governo né di sottogoverno, però i deputati non sono il diavolo, ci confronteremo, accetto il controllo dell'assemblea nel rispetto delle prerogative, non farò come gli altri presidenti, saranno i deputati ad eleggere il presidente dell'assemblea regionale siciliana. E così anche a Pubblico, intervistato da Francesca Schianchi, dice Crocetta: propongo a tutti un patto, ma non chiamatelo inciucio. In Sicilia ovviamente si analizza molto la vittoria dei grillini, è un termine che non piace agli esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno mandato anche questo glossario ai giornalisti per dire come li si deve definire. In realtà i giornalisti sono un po' teste dure, è così, e quindi non ascoltano. Oggi sul Corriere c'è, e anche sul Fatto Quotidiano, tutti titolano così, è così comodo per una questione anche di brevità tipografica mettere quella parola grillini, così ci si capisce. La carica dei 15 grillini, questo è il titolo a pagina 13 del Corriere, per esempio: armati di webcam, ecco chi sono, foto per foto, lavoro per lavoro. Giancarlo Cancelleri, che era il candidato governatore, magari è più conosciuto degli altri, Giorgio Ciaccio, che lavora nell'alimentazione biologica, Claudia La Rocca, che lavora nel turismo sostenibile, Salvatore Siragusa, addetto all'assistenza tecnologica, Angela Foti, impegnata nel volontariato, Gianina Ciancio, diplomata al conservatorio. Insomma, alcuni dei 13 grillini sono tutti con foto analizzati per capire chi sono, insomma, questa nuova truppa che è stata eletta in consiglio regionale. C'è anche un'intervista sul Corriere al vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello, che è siciliano, è stato anche a capo di Confindustria in Sicilia, e dice Lobello: bisogna subito fare un'operazione verità sul bilancio regionale, il nuovo presidente deve fare intervenire una società di revisione internazionale per verificare ogni singola posta del bilancio. Per cambiare la Sicilia occorrono tutte le realtà che non hanno avuto responsabilità nel disastro. Stimo molto Crocetta, dice Lobello, lo apprezzo quando dice che cambierà tutto. Per affrontare questo passaggio storico occorre però una fortissima idea di innovazione e cambiamento. Riguardo alla possibile non alleanza ma comunque condivisione di termini tra Crocetta e i Grillini, dice Lobello: i Grillini sono intervenuti in maniera rilevante durante la campagna elettorale, mi sembrano un interlocutore importante, la situazione economica finanziaria impone d'altronde una convergenza ampia di tutte le forze sane. Questo il vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello, intervistato da Felice Cavallaro sul Corriere. D'altronde anche loro, i responsabili del Movimento 5 Stelle, hanno fatto delle aperture a Crocetta dicendo: non chiudiamo su ogni singolo provvedimento, diceva ieri anche Cancelleri qui ospite alle 8:30 subito dopo il voto, valuteremo. E ora usano questo termine: ci seduca Crocetta, se riuscirà a sedurci con i provvedimenti positivi noi di volta in volta valutiamo e nel caso appoggiamo. Dall'altra parte il centrodestra che fa? Il centrodestra sconfitto a queste elezioni pensa alle primarie, ma titola Repubblica: è rivolta nel partito contro Berlusconi. Come dicevo, su Repubblica c'è questo titolo di prima pagina: il PDL scarica Berlusconi. Secondo Carmelo Lopapa, che firma un retroscena di Politica, sono 30 ormai su 335 i parlamentari fedelissimi a Silvio Berlusconi, mentre gli altri 300 sarebbero 300 e più, più votati alla linea del segretario del partito, vale a dire Alfano. Rivolta PDL contro Berlusconi, i deputati si schierano con Alfano, solo in 30 restano con il cavaliere e 300 invece con il segretario. Questo sarebbe l'analisi. Intanto, mentre un Berlusconi che, nonostante quello che ci ha detto Daniela Santanchè qualche giorno fa, dicendo no, guardate che rimane a lavorare questa settimana e poi non va in Kenya. Informazioni diverse provengono da Libero, Salvatore Dama: gli ultimi due giorni, secondo Libero, Berlusconi li ha passati a Montecatini Terme, al Grand Hotel e La Paz, dove c'è un intenso programma di due giorni di Beauty Farm, e questa sera volerà per il Kenya per andare al Lion in the Sun, credo si chiami così, il resort di Flavio Briatore. Oggi sarà a Roma, scrive Salvatore Dama, forse farà un saluto ai coordinatori regionali, ma poi andrà in Kenya. Libero peraltro dà un'altra notizia: per la nuova cosa, cioè il nuovo movimento politico, Silvio Berlusconi starebbe pensando a nuovi volti, tra cui lo scienziato Antonino Zichichi e Rita Dalla Chiesa, la conduttrice di Forum. Questo peraltro non è la prima volta che spunta il nome di Rita Dalla Chiesa, ma oggi Libero dice può darsi che ci stia puntando ancora. Mentre per le primarie, udite, è vero, Giulio Tremonti è pronto a sfidare Angelino Alfano, cioè Giulio Tremonti è pronto a fare le primarie, che saranno primarie di Partito del Popolo della Libertà, nonostante sia stato accusato da molti di essere stato uno anche degli ostacoli, a volte anche con Tremonti, con Berlusconi, di aver avuto frizioni sul governo, soprattutto su come intendeva l'economia nel governo Berlusconi. Giulio Tremonti pare proprio intenzionato a dire: mi candido alle primarie. C'è un'intervista a Marcello Dell'Utri che sintetizza un po' il momento di difficoltà, intervistato come sempre da Beatrice Borromeo, che ogni paio di mesi fa il punto della situazione sul Fatto Quotidiano col senatore Marcello Dell'Utri, che ride di gusto, così pare almeno dalla trascrizione dell'intervista, alla domanda: si è astenuta la mafia in Sicilia? Lo chiede a me, risponde Dell'Utri. Da capomafia dovrei risponderle, ma siccome non lo sono, non lo so. Che ne so, io non ci credo poi a tutte queste cose, dice Dell'Utri. Non crede alla mafia? No, non credo che la mafia si astenga. Quando vince Orlando la mafia non c'entra, quando vincono gli altri c'entra. Dove vanno sti voti della mafia? Chi l'ha mai capito? Così risponde Dell'Utri, che poi parla comunque di un Berlusconi molto scosso, animato da buone intenzioni, ma dice: sono ancora sotto shock per il voto in Sicilia, è stato un disastro. Alfano e Schifani hanno fatto una bella cavolata, così dice Marcello Dell'Utri. Per la politica, lo avete sentito anche in GR24, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, pagina 27, che Roberto Formigoni è stato sentito un paio di giorni fa, è una notizia che c'è solo sul Corriere, dalla PM Ilda Boccassini. La vicenda scaturisce proprio dalle parole che Formigoni ha detto qui a questi microfoni un mese fa circa riguardo all'arresto dell'assessore Zambetti, quando, racconta Ferrarella, Radio 24 aveva rivelato di avere già nutrito dei dubbi perché circolavano delle voci su Zambetti. Nonostante ciò lo ha riconfermato assessore, nonostante non lo volessi più riconfermare assessore. Per queste parole i carabinieri hanno voluto acquisire l'audio dell'intervista di Radio 24 e ieri hanno chiamato Formigoni e Ilda Boccassini lo ha interrogato come teste per capire a che cosa si riferisse a quelle voci che già circolavano su Zambetti nel 2010. Ovviamente Ferrarella scrive: non si sa nulla di come abbia risposto Formigoni finché l'interrogatorio non verrà depositato. Ma insomma, la nostra intervista a Formigoni ha fatto scaturire questo interrogatorio di Ilda Boccassini. Trovate sul Corriere a pagina 27. Io non mi ricordo mai la chiusura perché a quest'ora comincia a perdere colpi e credo di avere ancora un minuto, ah no, anche un minuto in più. Voglio andare sul Sole 24 Ore a raccontare quella che è l'apertura, un importante disegno di legge delega che il governo ha approvato riguardo le grandi opere. Il governo ha varato un disegno di legge di completamento delle riforme sugli appalti che prevede tante cose importanti: un riordino dei codici degli appalti e dell'edilizia per favorire la partecipazione privata al finanziamento, alla realizzazione di infrastrutture. Ma tra le novità importanti c'è anche l'introduzione della consultazione pubblica preliminare per le grandi opere. Beh, è un tema molto interessante. Grandi opere, decolla la consultazione pubblica. Questo lo trovate con tutti i dettagli a pagina 3 di quello che è stato approvato. Sono norme cosiddette anti-NIMBY, no? La sindrome Not in My Backyard, quella che impedisce di fare qualunque cosa perché ognuno non vuole, tutti nascono i comitati per impedire che vengano fatte le cose nel proprio orticello. E allora questo dibattito pubblico per aumentare il consenso ai progetti è interessante come strumento per coinvolgere la popolazione delle opere che vive nelle zone dove poi le grandi opere devono essere fatte. Che dire, siamo quasi in chiusura. C'è solo da segnalare che Vanna Marchi torna libera, così una pagina sulla Stampa, pagina 19. In realtà non è che è libera, è stata sospesa la pena perché la figlia di Vanna Marchi è malata e quindi per dare a lei la possibilità di accudire la figlia. Fabio Poletti racconta: sarebbe facile ironizzare sul nome del bar di via Napo Torriani dove da anni Vanna Marchi di giorno spilla caffè e cappuccini e adesso se vorrà pure la sera, ma a parte il caschetto di capelli rosso arancio, l'improbabile montone rovesciato viola, non c'è più niente della più nota tela imbonitrice della storia televisiva, spianata da quasi 7 anni di galera, risparmiata dal farne altri 2 e mezzo perché la figlia sta male. Forse racconterò tutto in un libro, così Vanna Marchi libera anche su Il Messaggero. In cella è stata dura e forse lo racconterò.